Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. E arriviamo appunto a questa settimana ad una nuova puntata di Fuori di Noi, ogni sabato alle ore 14, domenica alle 12.30. I microfoni di Blu Radio Veneto si aprono per raccontare appunto il mondo dei circoli oratori di Noi Associazione. La scorsa settimana, se vi ricordate, purtroppo sono sempre solo soletto perché la mia compagna di viaggio è ancora indisposta. Cristian appunto di Noi Treviso vi condurrà appunto in questa ennesima scoperta, in questo viaggio appunto all'interno di questo mondo variegato dei nostri oratori. Ricordo appunto che la settimana scorsa abbiamo incontrato l'oratorio di Santa Maria Maddalena di Vicenza, di Longare precisamente, e abbiamo incontrato anche gli amici, i ragazzi della CR di Spinea. Anche questa settimana avremo un contributo da un territoriale diverso, cioè da una provincia, diocesi diversa presente qui nel Veneto, e inoltre avremo un contributo dei ragazzi appunto della CR, con cui Noi Associazione ha stretto una collaborazione. Ci racconteranno cosa fanno di bello all'interno del mondo ACR, perché il mondo ACR fa parte del mondo degli oratori, così come il mondo degli oratori appunto si apre le proprie porte al mondo dell'ACR. Ospiti e protagonisti di questa puntata sono i ragazzi dell'ACR di Selva e Venegazzù, che come nelle precedenti puntate hanno scelto loro stessi i brani musicali da inserire in questo contenitore settimanale, in questa precisa puntata di Fuori di Noi. Tante sono le notizie, tante sono le informazioni che vi daremo e che provengono da diverse zone, diverse diocesi della nostra regione, perché vogliamo raccontarvi con semplicità, con simpatia, tenendovi anche un po' di compagnia, tutte le belle attività e iniziative che propongono appunto i nostri circoli padronati. Ma adesso andiamo, innanzitutto ringraziamo la regia di Edi Daici, salutiamo appunto la mia compagna, ancora sente, speriamo di risentire la settimana prossima, Anna Zampieri dell'Azione Cattolica di Treviso. E iniziamo con il primo brano, sempre scelto, solamente scelto dai ragazzi appunto della CR di Selva e Venegazzù, Bruno Mars con The Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan, turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. She's gonna scream out, this is great. Oh my God, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message Fuori di noi va in onda ogni sabato alle ore 14, domenica alle 12.30, email fuoridinoi@libero.it, oppure potete inviarci un sms al 320-614-6964. Trasmissione appunto dedicata al mondo degli oratori, e di questo parliamo. Parliamo anche di una importante iniziativa, è una settimana importante perché c'è la scadenza per quanto riguarda il territoriale di Treviso per partecipare alla grande festa di compleanno che appunto ricorderà i 10 anni di fondazione del NOI 2002-2012, che si celebrerà in un oratorio della diocesi di Treviso, specialmente quello di San Giorgio di Quinto di Treviso, domenica 15 aprile. Dalla mattina al tardo pomeriggio tutti gli oratori affiliati a NOI Treviso sono invitati per stare insieme, per vivere un momento di gioia, un momento di festa e per ritrovarsi uniti in questo particolare anniversario. Scadenza per mandare appunto le iscrizioni, le partecipazioni di questi, di tutti i nostri oratori appunto della diocesi di Treviso, è fissata appunto per sabato 24 marzo, quindi invitiamo tutti chi ancora non l'avesse fatto a mandare appunto la propria iscrizione, in maniera tale che siamo in tanti, ma soprattutto siamo rappresentanti di una grande famiglia che a Treviso riesce a radunare più di 130 realtà sparse in tutto il territorio diocesano. Poi c'è un altro grande appuntamento, o meglio un concorso, un premio letterario arrivato alla sua 18ª edizione, il concorso, il premio letterario San Paolo 2012, che si verifica e si svolge ogni 2 anni. La scadenza del bando è il 30 marzo 2012. La partecipazione al premio letterario San Paolo si articola nelle seguenti sezioni, leggiamo qui dal bando: sezione A, prosa in lingua italiana, sezione B, poesia in lingua italiana, sezione C, poesia in uno dei vernacoli del Triveneto e dell'Istria, sezione D, Marcello Bianchin, poeta migrante, sezione dedicata ai ragazzi. Se volete qualche informazione bisogna appunto spedire il vostro lavoro a Premio Letterario San Paolo 2012 presso CSI Treviso, via Longhin 7 31100 Treviso. La premiazione avrà luogo domenica 3 giugno 2012 ore 10, promosso dall'associazione Noi di San Paolo di Treviso. Se volete le informazioni dettagliate e il regolamento per poter partecipare a questa importante iniziativa, andate su www.premioletterariosanpaolo.org oppure inviate un'email a info@premioletterariosanpaolo.org. Questi sono i contatti. E dopo aver dato queste due notizie passiamo, di solito le inseriamo appunto questi contributi appunto dei nostri ragazzi della CR che sono i protagonisti, Selva e Venegazzù alla fine, noi questa volta invece li inseriamo all'interno di Fuori di Noi come prima parte, perché in oratorio, ricordiamolo sempre, in oratorio si vola alto. E allora diamo la parola ai ragazzi della CR di Selva e Venegazzù. Siamo della parrocchia di Selva e Venegazzù e siamo Anna, Sara, Elisa, Giulio, Elena, Fabio, Anna, Alberto, Sara, Samuel, Luca. Nome del paese: Venegazzù. Selva del Montello. Nome della parrocchia: San Andrea Apostolo. San Silvestro Papa. Comune: Volpago del Montello. Volpago del Montello. Numero abitanti: 2000 circa. 2563. Numero delle famiglie: 700 circa. 980. Nome del parroco: Don Massimo Lazzari. Don Luigi Dal Bello. Età del parroco: 41 anni. 58. 3 gruppi in parrocchia: ACR, Noi Oratorio, ACG, Gruppo Famiglie, Animatori. ACR, ACG, Gruppo Missionario. Quando si fa la CR? Domenica. Domenica. A che ora si fa la CR? Dalle 9 alle 12. Dalle 8 e mezza alle 12. Quanti siamo alla CR? 15 tra quinta elementare e media. 14 tra quinta elementare e media. I tuoi educatori? Tiziana, Marica, Nicolas, Isacco, Giovanni, Lucrezia, Marta. Luigi, Massimiliano, Luca, Francesca. Nell'ultimo incontro abbiamo parlato... Festa della pace. Festa della pace. ACR, a me mi piace... Incontro i miei amici e Gesù. Perché ci piace stare con gli amici e fare attività divertenti per conoscere Gesù. Attività principali durante l'anno: Festa della Pace, Festa del Ciao, Caposcuola, Convegno. Festa della Pace, Festa del Ciao e Mercatino Equo e Solidale. Numero degli aderenti alla CR: 17 iscritti. 34. Vedete allora che il primo momento è sempre una carta d'identità, questa volta l'abbiamo addirittura doppia perché si parlava sia di Selva che di Venegazzù, che fanno appunto ACR insieme, ma sono appunto due realtà, diciamo, ben definite. Ma adesso raccontiamo, sentiamo dalle loro voci quali sono quelle attività che li hanno appunto particolarmente colpiti in quest'ultimo periodo. La nostra ultima attività è stata la Festa della Pace, assieme a tutte le parrocchie del vicariato. Il tema della Festa della Pace era la Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia. I sei diritti che abbiamo trattato sono: diritto alla sanità con l'associazione dell'ABIO che aiuta i bambini in ospedale. Diritto di associazione, è venuta una donna corsovara che ci ha testimoniato la sua vita durante la guerra senza alcun diritto di associazione. Diritto alla crescita serena, i diritti dei bambini. L'educazione, senza l'educazione non potremmo né leggere né scrivere. Il lavoro degno e indegno dei bambini del Sud America con l'associazione dei NAZ. Il dono della vita. Nella nostra attività c'è stata la testimonianza di una collaboratrice dell'associazione CAV che aiuta le mamme con bambini piccoli in difficoltà attraverso la donazione di vestiti. Un saluto da Venegazzù! Viva Gesù! Un saluto da Selva! Pegno! Pegno! Pegno! E con questo modo appunto simpatico ci salutano i nostri amici, i nostri ragazzi della CR di Selva e Venegazzù. Vedete anche, ascoltando appunto il loro contributo, che gli stessi problemi che magari vengono affrontati nelle sedi, diciamo, più istituzionali a livello europeo o mondiale, vengono anche ridimensionati, ricollocati, ripensati anche all'interno di un gruppo ACR. In che cosa consiste questa collaborazione? I ragazzi vengono direttamente appunto qua negli studi di Blu Radio Veneto e cercano appunto di contribuire appunto con la loro vivacità, con la loro simpatia, raccontando quello che fanno di bello all'ACR, vedono gli ambienti, conoscono anche le finalità di questa radio che cerca di raccontare il Veneto come non l'avete mai sentito, così come recitano i poster e gli slogan, e cerca anche un po' di raccontare una dimensione più familiare che si continua appunto a vivere nelle proprie comunità, nelle proprie parrocchie, nei propri paesi. Quindi ringraziamo nuovamente fino ad ora tutti i ragazzi, tutti i gruppi che sono intervenuti fino adesso e che hanno appunto mandato in onda attraverso Fuori di Noi i contributi per quanto riguarda la propria, diciamo, realtà di ACR. Grazie agli educatori ACR di Selva e Venegazzù, grazie ai ragazzi di Selva e Venegazzù che ci dedicano, perché hanno scelto sempre loro, una nuova canzone dal loro, diciamo, CD compilation preferito, e ci dedicano Paradise dei Coldplay. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night. E dopo aver ascoltato questa meravigliosa canzone dei Coldplay Paradise, noi continuiamo appunto il nostro programma. Dopo aver sentito anche i ragazzi della CR di Selva e Venegazzù, noi continuiamo raccontando un'altra esperienza. Ci spostiamo ovviamente di diocesi e di provincia, perché andiamo in quella di Padova e abbiamo un ospite in contatto telefonico che ci parlerà di un progetto che stanno portando avanti proprio nella diocesi di Padova. Vediamo se ce l'abbiamo in linea. Don Marco, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Don Marco. Bentrovati a tutti. Grazie appunto di aver partecipato e di aver dato disponibilità per partecipare a Fuori di Noi, trasmissione dedicata appunto al mondo degli oratori, ogni settimana in onda su Blu Radio Veneto. Don Marco, tu da dove ci stai telefonando, dove ti stai chiamando, da dove sei? Ma io sono nel mio ufficio, che è l'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Padova, che insieme a noi Padova, ma ovviamente la progettualità è aperta a tutti i circoli noi, ha proposto un'iniziativa, un'idea propulsiva, cioè alcuni oratori, alcuni patronati hanno a disposizione una saletta informatica. Sì. Perché a questo punto non attivare le energie dei ragazzi volontari, degli adolescenti o dei giovani, perché possono affiancare un nonno, un senior, e insegnargli come si naviga in internet, come si entra, quali possibilità possono derivare dal contatto con la rete. Ho capito. L'idea è questa, e capita proprio nell'anno della solidarietà tra generazioni, l'anno europeo, sì, che ricorda un po' il contatto tra i più anziani e i ragazzi, e riattiva anche una serie di possibilità all'interno delle scuole, ad esempio, che hanno delle aule informatiche molto ben attrezzate e che potrebbero essere un luogo di formazione per i più anziani. Ma domanda una cosa Don Marco. Voi come diocesi di Padova, so perché appunto ci siamo già sentiti anche con Don Gabriele tempo fa e con altre, diciamo, realtà sempre padovane, investite molto sulla comunicazione, e io penso appunto che questo progetto sia estremamente importante, perché è anche un progetto territoriale, cioè va a collocarsi appunto negli oratori, nelle parrocchie, nelle comunità. Ma io ti chiedo, oggi c'è un problema di comunicazione? Cioè, nel senso, se io dicessi che c'è una comunicazione a senso unico tante volte, cioè noi per esempio attraverso questa radio, Blu Radio Veneto, noi cerchiamo di raccontare un altro tipo di informazione, raccontare anche determinati nuovi progetti che magari non trovano voce in altri mezzi di comunicazione, in altri sistemi informativi. Oggi secondo te c'è bisogno, sicuramente qua parlate appunto di formare dei volontari della comunicazione, e c'è bisogno di un nuovo tipo di comunicazione, cioè c'è bisogno anche di raccontare qualcos'altro secondo te, oppure questo progetto ha soltanto come obiettivo quello di insegnare, diciamo, insegnare o stare un po' al passo con i tempi? Ma in realtà il progetto è a passi progressivi. C'è una prima ricognizione sul territorio, come dicevate giustamente, territoriale, di giovani che sono disponibili e sensibili ai temi della comunicazione. Dopodiché, da qualche anno a questa parte, i ragazzi non sono più solo fruitori dei mezzi di comunicazione a senso unico, ma sono diventati protagonisti. Addirittura c'è un canadese che si chiama Derek De Kerkhove, un esperto di mass media, sì, che ha inventato una nuova parola, che tradotta in italiano la possiamo sintetizzare così: scrittore con la E. Cioè dice, quando uno va a fare il lettore dentro internet, o ad esempio usa Twitter, non diventa più solo un fruitore, ma diventa a sua volta un produttore. Ora faccio un esempio molto semplice. Sì. I ragazzi, anche alcuni degli oratori che conosco io e quindi lo fanno direttamente dai computer che trovano in parrocchia, vanno a leggersi i quotidiani in rete, perché non comprano ovviamente il giornale in edicola, e lasciano il loro commento alla notizia che li ha più colpiti. Ora, quel ragazzo lì, da una parte cambia il senso della notizia, perché ad esempio se si trattava di una notizia estremamente negativa, che però lui sa che può essere ridimensionata, dà tutt'altro tono. Oppure, cosa ancora più interessante, questa la vedo salire dalla base, ci sono molte parrocchie e molti circoli noi anche che hanno un profilo su Facebook. Sì, certo. E all'interno di questo profilo cresce una comunicazione a doppio senso, bionivoca, ma cresce anche una relazione, che è una componente ulteriore. Certo, che risposte avete avuto di partecipazione e di interesse per questo, io dico anche un po' ambizioso progetto, ma è estremamente stimolante? Ma abbiamo avuto un primo incontro con una quarantina di persone, avevamo un bel gruppo di giovani e tra l'altro il tipo di formazione che facciamo noi è non convenzionale. Abbiamo scelto di farla fare a due comici che riescono ad attivare delle dinamiche interattive. Faccio un esempio, no? I ragazzi si trovano all'interno dell'aula di formazione e devono capire come aiutare un anziano a entrare nel mondo della relazione e della comunicazione in rete. E una delle sfide è: prova a spiegare a un extraterrestre che cos'è la benzina e perché devi metterla nel motore. E ci sono tre ragazzi che tentano di farlo. Quando uno non ce la fa più, si blocca, si mette in fila dietro e lascia il posto all'altro. Solamente facendo questo esercizio ci si rende conto quanto difficile è spiegare qualcosa sulla quale non si è mai fatto una procedura, non si è mai pensato. Ecco perché prima di tutto facciamo prendere coscienza a questi ragazzi di come loro comunicano e poi da questo come aiutare una persona più anziana a comunicare in quel modo efficace. Beh, io credo che nella definizione che diceva, che dava diciamo anche il Papa sugli oratori di essere ponte, credo che questo progetto si collochi perfettamente in sintonia con questo stile. No, leggevo anche che avete instaurato diverse collaborazioni, perché il progetto parte dall'ufficio appunto delle comunicazioni sociali che tu appunto segui in prima persona, poi anche da Anicom in partnership con la provincia di Padova, noi associazione ovviamente, e Giano Family. Queste sono le collaborazioni principali, no? Sì. Provincia di Padova, ovviamente legandolo diciamo all'assessorato alle politiche familiari e sociali. Sì, c'è un sito che si trova all'indirizzo volontaridellacomunicazione.it dove è spiegato il progetto, per cui se c'è qualche altra diocesi o qualche circolo noi che vuole replicare la progettualità, noi abbiamo messo il nostro materiale didattico, abbiamo inserito dei video che tra l'altro sono quelli prodotti da Telecom Italia per lo stesso tipo di progetto, anche Telecom lo sta facendo nelle scuole. Ah, ho capito. Abbiamo proposto anche alcune vie molto semplici che durante l'estate, penso ai centri estivi, no? Sì. I GREST che mettiamo in opera all'interno dei patronati degli oratori. Sì. Perché all'interno di una progettualità così 5-6 ragazzi non possono fare un laboratorio di contatto con qualche persona più anziana, che diventa uno scambio doppio, perché poi questa persona, oltre a restituire diciamo dell'attenzione, dell'affetto verso questi ragazzi, può anche trasferire delle competenze che i ragazzi non hanno. Noi abbiamo visto, per fare un ultimo esempio molto banale, abbiamo visto che durante il corso di formazione di martedì scorso c'erano due persone anziane molto esperte dell'uso del computer. Alla fine, spontaneamente, si sono fermati gli adolescenti e questi due anziani hanno fatto capannello e non volevano più uscire dall'aula di formazione. Abbiamo sbattuti fuori perché dovevamo chiudere. Ecco, per dire come si innescano queste dinamiche. Che tante volte appunto sono sorprendenti, perché noi pensiamo che magari certe metodologie possono catturare magari più un settore, più una generazione che un'altra, invece appunto le due generazioni tante volte si possono incontrare anche in maniera molto semplice e inaspettata, e forse anche questa la forza diciamo di tanti nostri progetti, o meglio la fiducia che dovremmo mettere in tanti progetti e che appunto anche voi di Padova avete messo in questo particolare attività. Allora Don Marco Sanavio, ti ringraziamo. Il sito è www.volontariodellacomunicazione.it se volete saperne di più, però come hai detto tu è un invito magari appunto rivolto anche alle altre diocesi che ci stanno ascoltando, Venezia e Treviso, per magari appunto partecipare, sentire e approfondire diciamo questo progetto e magari poi esportarlo e verificare Carlo, come hai detto tu, nei GREST prossimi futuri, la cui presentazione è imminente, quindi siamo perfettamente in tempo per lanciare anche questa nuova proposta per il GREST 2012. Don Marco, ti ringraziamo tanto della tua disponibilità. Grazie a voi, grazie, buona continuazione. E buon lavoro, grazie. E allora siamo giunti al termine anche di questa puntata di Fuori di Noi, raccontando questo progetto che, ripeto ancora, potete anche diciamo conoscere attraverso il sito del Noi territoriale di Padova, www.noipadova.it. Basta cliccare, appunto navigare su questo sito, avrete tutta la spiegazione e l'approfondimento che in qualche maniera Don Marco Sanavio, che abbiamo intervistato, ci ha un po' presentato e accennato. Ringraziamo la regia di Eddie Dai, ci ricordiamo sempre i nostri contatti contattati, fuori di noi @libero.it, l'SMS 320-614-6964, ogni sabato alle 14, ogni domenica alle 12.30, se sintonizzate la radio su Blu Radio Veneto 94.60, 88.70, ascoltate la puntata di Fuori di Noi, ma la potete trovare ovviamente anche sul sito della radio www.bluradioveneto.it e la potete riascoltare e scaricare sul podcast programmi. Ciao a tutti, buona settimana! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.